La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 28 secondi in diretta da Milano. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto, Oscar Giannino. Vi ricordo ancora una volta l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per candidarvi a intervenire se siete giovani o meno giovani, ma che o vi apprestate a lasciare l'Italia o avreste voluto farlo, lo avete fatto e siete tornati indietro, o se siete all'estero lo avete fatto, non vi siete pentiti o vi siete pentiti, per raccontare il problema. Dalla prossima settimana cominciamo di un'Italia non per giovani, sia per la formazione sia per il reddito e l'occupazione. E detto tutto questo, sapete, prima che vi annunci l'argomento della trasmissione, sicuramente dalle precedenti edizioni del giornale radio, dalla televisione, dai siti dei giornali, delle nuove scosse purtroppo in centro Italia di questa mattina, con epicentro vicino ad Amatrice, proteste vive e vivissime dei sindaci, oltre ai nuovi danni, per il momento non ci sono vittime, strade bloccate, sommerse dalla neve. Ci fossero emergenze e novità, breaking news, i colleghi del giornale radio, come ovvio, interrompono la programmazione per informarvi, come sempre, con tempismo a Radio 24, di che cosa avviene. Tutti speriamo, resta il punto, ovviamente, che tutta l'enfasi che c'era su Casa Italia, annunciata dopo il sisma che è alle nostre spalle, che ha messo in ginocchio l'economia e la persistenza in vita di centri fondamentali a cavallo tra le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo, è sembrata sparire poi di fronte al referendum e così via, ma di lì si tratta di ripartire senza perdere altro tempo. E detto tutto questo, oggi ci occupiamo di un libro che ha a che vedere con uno dei maggiori problemi irrisolti della Chiesa Cattolica. È un libro che io vi consiglio caldissimamente di leggere. A me ha lasciato, pur non essendo uno sprovvisto di cognizione del mondo dopo tanti decenni che faccio questo mestiere, abbastanza senza parole, perché pur credendo di sapere molte cose, ho scoperto in moltissimi dei capitoli, paese per paese, cardinale per cardinale, sì, le cui vicende in pertinenza all'argomento vengono ripercorse, di non conoscere molte cose. È un libro dedicato a un tema scottante, ma non lo fa con il tono, il piglio, il commento né dell'anticlericalismo né pregiudizio nei confronti della fede cristiana e cattolica. Si limita a essere una ricostruzione molto dettagliata di tutto quello che sappiamo, di moltissimi, troppi davvero, casi di pedofilia, quindi di abusi sessuali nei confronti di minori, ragazzi e ragazze, compiuti negli anni da appartenenti alla Chiesa Cattolica, ricostruendo caso per caso, di fronte alle indagini aperte, rompendo il muro del silenzio, della vergogna, eccetera, eccetera, in che cosa è consistito davvero l'atteggiamento delle gerarchie, che di paese in paese potevano essere arcivescovi e cardinali o primati, moltissimi di loro poi chiamati a esercitare responsabilità del tutto apicali al vertice del cuore della Chiesa Cattolica, in curia, ancora a fianco di questo Papa, Papa Bergoglio, che pure ha detto, come il suo predecessore del resto, Benedetto XVI, parole durissime di condanna contro gli abusi sessuali da parte di preti, parole veramente durissime. E però questo libro ha il merito di porre dal punto di vista giornalistico una questione che investe radicalmente le regole, la trasparenza e quindi la forza stessa della fede per chi ci crede, o comunque della fiducia verso l'istituzione della Chiesa Cattolica, perché ricostruisce anche l'evoluzione nel tempo delle norme che hanno presieduto di pontefice in pontefice, da Giovanni XXIII ai suoi successori, con interventi vigorosi da parte di Benedetto XVI e anche di Papa Francesco, ma che a tutt'oggi, pur avendo modificato le norme che un tempo lasciavano le indagini interne della Chiesa sui casi di abuso sessuale con accuse nei confronti di appartenenti alla Chiesa, alla competenza dei tribunali diocesani vincolati dal più totale segreto, l'hanno poi centralizzato dopo uno screening iniziale che si fa ancora nelle diocesi, l'hanno centralizzato presso la Congregazione della Fede, e pur tuttavia sempre coperto dal totale segreto pontificio e con una percentuale di istruttorie vere che vengono condotte e di sanzioni che è bassissima. Pensate solo che qui viene documentato come, per avere un'idea del fenomeno, nei primi 3 anni di pontificato di Papa Bergoglio sono arrivate alla Congregazione per la Dottrina della Fede ben 1200 denunce di molestie verosimili, considerate verosimili, quindi dopo il primo screening diocesano, su ragazzini e ragazzine in mezzo mondo. In questo libro, a cominciare dal primo capitolo che riguarda il numero 3 della gerarchia vaticana, il cardinale George Pell, che è il capo delle finanze, anzi del risanamento delle finanze vaticane, di cui si ricostruisce la sua opera testimoniata dalla Royal Commission, che in Australia sta indagando sugli abusi perpetrati per molti anni con totale copertura da parte dell'attuale cardinale Pell, da molti appartenenti alla Chiesa australiana. E via via, estendendo poi l'analisi, dopo il caso del cardinale Pell, al caso del cardinale Oscar Rodriguez Maradiaga, al caso del cardinale, ci spostiamo quindi Honduras e Centro America, al caso del cardinale Francisco Errázuriz, di cui io non sapevo niente delle vicende invece in corso da anni in Cile. Poi prelati importanti, Carlo Maria Viganò, Timothy Dolan, Bertone, molti vescovi italiani, fino al capitolo finale che riguarda il vescovo emerito di Messina, Calogero Lapiana, salesiano, nominato da Benedetto XVI, metropolita di Messina, di cui si ricostruisce un lascito testamentario di cui è beneficiario il vescovo Lapiana, e è un lascito testamentario che ha una provenienza, insomma, che porta le stigmate esattamente del tipo di condotte che nell'attuale codice di diritto canonico sono definiti delicta graviora, cioè tra le più gravi mancanze che chi ha professato gli ordini può compiere, parificati a, come crimini gravi, a quelli dei crimini contro l'Eucaristia, la violazione del sigillo sacramentale. Ecco, il reato per esempio di pedopornografia, che è stato recentemente con Francesco Bergoglio, il Papa Francesco, che è entrato nell'ordinamento penale della Chiesa, ecco, e tutti gli atti contra il sextum, cioè il sesto comandamento, fanno parte di questi delitti più gravi. Eppure la percentuale rispetto a quelli 1200 casi che vi ho detto sono documentati qua, di coloro sanzionati, è bassissima. Allora, questo libro l'ha scritto un giornalista di cui ho una stima assoluta, che è lo stesso giornalista che è finito sotto processo insieme a Nunzi per aver scritto un libro il cui titolo era Avarizia, le carte che svelano ricchezza, scandali e segreti della Chiesa di Francesco. È un inviato speciale dell'Espresso, si chiama Emiliano Fittipaldi. Sapete che dal processo a cui è stato sottoposto, lui, che aveva insieme a Nunzi rivelato gli affari coperti delle finanze vaticane, è stato poi prosciolto per difetto di giurisdizione, non sono neanche entrati nel merito, a luglio del 2016, quindi magari dovevano, fin dall'inizio era evidente che c'era un difetto di giurisdizione, e oggi ha scritto questo nuovo libro che da domani trovate in tutte le librerie, Feltrinelli editore, Emiliano Fittipaldi l'autore, Lussuria, quindi dopo Avarizia Lussuria, siamo nella serie dei 7 peccati capitali, Lussuria, e il sottotitolo è Peccati, scandali e tradimenti di una Chiesa fatta di uomini. Io vi invito a leggerlo soprattutto e innanzitutto se siete uomini di fede, non mi interessa la polemica pregiudiziale. Faccio appello a tutti coloro che pensano che impegnarsi per la trasparenza, per i procedimenti e per una successiva evoluzione delle norme e del coraggio con cui dall'alto bisogna spingere la Chiesa a tutti i livelli nelle diocesi a non coprire più casi di questo tipo, sia per i credenti, debba essere per i credenti una spinta fondamentale. Serve ad aiutare, credo, la Chiesa a fare i conti fino in fondo con un fenomeno che è troppo ampio nel mondo per poter essere considerato una devianza non tollerata per tanti anni. Grazie a Emiliano Fittipaldi per aver scritto questo libro e per essere con noi oggi pomeriggio. Buonasera a tutti. Posso chiederti semplicemente una cosa per cominciare, andando verso la fine del tuo libro, quando parli di Papa Francesco, dopo aver iniziato nomina dopo nomina dei cardinali che fanno parte del Consiglio dei Nove, l'organo più eminente che aiuta il Papa nel governo della Chiesa, e aver detto di così tanti di loro le vicende che hanno coperto nei rispettivi paesi negli anni alle spalle, che cosa è secondo te ancora oggi, per la tua esperienza, che in curia a Roma frena quella specie di rivoluzione che Benedetto XVI in una sua intervista aveva annunciato rispetto alla cosiddetta, perché tu non parli di questo, tu parli di casi personali e delle vicende, non parli di una lobby gay, però quello fu esattamente l'espressione usata in quell'intervista a Papa Benedetto XVI. Che cos'è che impedisce ancora chiarezza? Rispetto alla questione della lobby gay, dici tu? Sì. Il problema è che secondo alcuni studiosi in Vaticano la lobby gay è ancora fortissima. Ne parlo di persone che hanno vissuto e hanno lavorato in Vaticano. Quando uscì un'inchiesta di Panorama e di Repubblica nel 2013 proprio sulla presenza di una lobby gay che era stata analizzata da tre cardinali che avevano fatto un'inchiesta sul primo Batilix, gran parte degli uffici stampa vaticani negarono con violenza, dicendo che i giornalisti inventavano storie. E poi successivamente sia Francesco, non volontariamente, ma perché diciamo quasi intercettato da un gruppo di vescovi che poi lo scrisse quando in Sud America, ammise l'esistenza di questa lobby gay che in qualche modo deformava la vita del Vaticano, perché lobby gay vuol dire le persone che sono legate alla stessa tendenza omosessuale, e chi se ne frega ovviamente, soprattutto quando è consenziente tra adulti, ma spesso lo collegava anche a affari economici, spesso illeciti, che venivano fatti in Vaticano. Quindi anche Francesco ha ammesso l'esistenza di questa lobby gay, e soprattutto Benedetto XVI, in una biografia uscita a settembre, la cosa è sfuggita ai più, a una domanda precisa del suo biografo, ha detto sì, effettivamente quella lobby gay esisteva. In più sono state fatte delle dichiarazioni, nonostante alcuni sempre gli organi vaticani abbiano negato, insomma, adesso non lo possono fare più perché sia il Papa emerito sia il Papa che siede sul soglio Petrino lo hanno confermato. Il capo della Guardia Svizzera, adesso che non c'è più in pensione, diceva che era che c'era una lobby che addirittura attentava alla vita del Papa, non so se in senso metaforico o in senso reale, immagino in senso metaforico, ai suoi poteri. Perché è così difficile combatterla? Ma secondo uno come Messori, che diciamo è un importante scrittore cattolico, scrive sul Corriere della Sera, secondo le cose che lui ha studiato, quasi un terzo delle persone che lavorano per la Chiesa Cattolica avrebbero tendenze omosessuali, il che, ripeto, non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che la dottrina cattolica ancora oggi, nonostante qualche dichiarazione di apertura di Papa Francesco, considera gli omosessuali niente più che deviati, comportamenti cattivi, così scrive Ratzinger nelle sue istruzioni che valgono tuttora, anche il catechismo a cui si rifà ogni tanto Francesco, diciamo, quindi, che lui la pensa. Queste sono le difficoltà, però veniamo al nocciolo vero a cui è dedicato l'intero volume, cioè quello degli abusi contro i piccoli, i bambini e le bambine. Allora, Papa Francesco è stato il primo nella storia a far arrestare, tu lo documenti, dalla gendarmeria vaticana un altro esponente della curia, un arcivescovo, un nunzio polacco, accusato di aver adescato bambini. E con Papa Francesco è stata anche proprio istituita una commissione a tutela degli abusi. Allora, com'è che Papa Francesco da una parte ha dato questo, che è un grande segnale rispetto alla storia della Chiesa, non c'è dubbio, rispetto alle coperture che documenta in tutto il libro, è la prima volta che avviene, è l'istituzione della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, è evidente che è collegata a questo fenomeno degli abusi, su cui ha avuto parole durissime. Però com'è che tutte le nomine di cardinali di cui tu documenti quello che hanno fatto nei loro paesi a copertura degli abusi ai minori, lui le ha fatte senza sapere. È questo che bisogna pensare. Come fa un pontefice a non sapere quello che per anni, in tutti gli anni alle spalle, vicende decennali di copertura riguardavano e riguardano cardinali come Pell o come Maradiaga? Questa è la domanda da $1 milione. Io sono meno ottimista anche sui successi che sono stati decantati soprattutto dai media italiani, ossia parlo della commissione che tu hai citato. Quella commissione è nata da 2 anni e mezzo si è incontrata pochissime volte. Io scrivo 3-4, oggi mi ha risposto una della commissione dicendo che in realtà si sono visti 7-8 volte. Quindi fuffa. Fuffa pura, perché non ha alcun potere reale, ha soltanto un potere consultivo. Nel senso, i commissari, ci sono 2 sopravvissuti ai maniaci sessuali, ma moltissimi appartengono ovviamente alla Chiesa Cattolica, non hanno potere di indagine sui casi che abbiamo detto prima, che rimangono completamente occultati nelle segrete stanze della Congregazione della Dottrina della Fede, di cui non si sa nulla. Perché c'è ancora il segreto pontificio, nonostante l'ONU ha chiesto nel 2014 di eliminare il segreto pontificio e di avere una relazione stretta tra autorità ecclesiastica e autorità civile, ancora questo non c'è. La commissione serve per fare delle linee guida da dare alla dei workshop, hanno istituito una giornata di preghiera, ma più di tanto non ha fatto. In più anche l'arresto di Vesolovskij, per carità, è stato un segno importante, ma ricordo che Vesolovskij è stato improvvisamente portato via da Santo Domingo, dal Vaticano, senza alcuna spiegazione, e riportato subito a Roma a pochi giorni dalla incriminazione ufficiale. Tant'è quindi oramai era inevitabile, ecco. Assolutamente, la polizia di Santo Domingo si è molto arrabbiata. Io ho recuperato un tweet in cui la polizia di Santo Domingo si lamentava di questo spostamento, chiedendo poi una rogatoria internazionale per riavere indietro, perché una cosa è essere processato e arrestato a Santo Domingo, dove i reati sono stati commessi, un'altra cosa ovviamente essere in Vaticano, dove subito ha goduto di enorme libertà, l'hanno visto spesso girare nei giardini vaticani, e l'arresto obbligatorio, perché era talmente evidente lo scandalo che la posizione di Francesco si sarebbe diventata molto fragile, e quindi anche lì il successo dipende se uno conosce veramente la storia oppure l'ha soltanto adocchiata dai media, che diciamo rispetto a questo Papa ma tu credi... un occhio particolarmente benevolo. Per allora, quanto riguarda la domanda più importante che mi hai fatto tu, sì, io ho fatto semplicemente uno screening giornalistico dei 9 cardinali più importanti. I 9 cardinali più importanti sono quelli che sono nel C9, cioè il gruppo di cardinali che deve aiutare Papa Francesco nella gestione della Chiesa Universale. Un terzo di questi cardinali ha avuto un passato di insabbiamento. Ma io adesso io faccio ma voglio dire, il caso di Pell è una cosa, voglio dire, i documenti della Royal Commission, i casi che tu documenti, bambini morti stravolti per incidenti che li hanno resi inabili nella vita, cioè guardate cari ascoltatori, non sono la ricerca di effetti horror, queste sono vicende che devastano per la vita intera, no? Perpetrate sui bambini, e purtroppo sono documentate. Sì, nel caso di Pell, ti faccio la domanda, mi dai risposta per un minuto perché abbiamo il traffico. Ma nel caso di Maradiaga, io posso anche capire, non lo so, Papa Francesco non ha seguito la vicenda della Chiesa australiana, ma Maradiaga, prima di coprire, come tu documenti, un prete costaricense accusato, inseguito per mezzo Sud America dalla polizia del suo paese e di volta in volta coperto dalle autorità ecclesiastiche dei paesi in cui continuava a nascondersi, esercitando naturalmente la sua funzione sacerdotale. Però voglio dire, Maradiaga, quando esplose la vicenda, la grande vicenda, quella degli abusi nelle chiese, nelle diocesi americane, che travolse alcune diocesi e così via, rilasciò interviste durissime in cui diceva che era tutto un pregiudizio contro la Chiesa Cattolica, cioè lì è un caso conclamato, non è che il Papa può non saperlo. voglio dire, travolti poi dall'evidenza dei fatti, cioè dalle conclusioni processuali negli Stati Uniti e dagli accoglimenti di class action che hanno portato all'esborso di pacchi di milioni di dollari, ripeto, mettendo le diocesi hanno iniziato a schermare i loro patrimoni per evitare di pagare ciò a cui venivano condannate per aver coperto queste vicende per tanti anni. E Maradiaga aveva fatto una battaglia pubblica perché tutto restasse insabbiato e perché anzi venisse bollato come le accuse della stampa assolutamente ostile a tutto quello di buono che fa la Chiesa Cattolica. Mi rispondi tra un minuto. Traffico. La versione di Oscar. Eccoci qua, siamo con Emanuele Fittipaldi per l'uscita di questo suo libro di cui vi consiglio la lettura, Lussuria, peccati, scandali e tradimenti di una chiesa fatta di uomini, un libro dedicato soprattutto a documentare gli troppi, innumerevoli, migliaia di casi di abusi su minori, la copertura effettuata in troppissimi, lo dico apposta, sapendo che è scorretto, casi dalle gerarchie cattoliche. Abbiamo anche un ascoltatore, Pasquale da Roma. Pasquale? Salve, buonasera. Buonasera, ci dica. Allora, buonasera, senta, io adesso... Così, sono un po' emozionato perché a parte il terremoto qua poi io l'ho sentito e poi anche il fatto di questa telefonata. Senti, io stavo ascoltando questa vostra rubrica, rubrica rispetto a ciò che riguarda lo scandalo della pedofilia. Allora, io sono un ex seminarista, io sono quasi 30 anni fa sono entrato nel mondo della Chiesa e già dall'epoca io ho vissuto in Spagna per 3 anni. E già dall'epoca, negli anni Ottanta, si parlava di questi scandali in America, della pedofilia, quindi coperta all'interno della Chiesa, il fatto anche che si indebitava spesso di parecchi milioni di dollari per risarcire. E poi è esploso negli anni 2000. E dunque? Negli anni 2000, ok, quindi è una cosa vecchia, io l'ho vissuta da seminarista. Sì. E all'interno dei seminari, all'interno degli istituti religiosi, all'interno questa cosa è sempre stata risaputa, da sempre. E l'ambiente gay è un ambiente gay molto forte, molto sentito all'interno. Quindi lei ha avvertito che questo era un problema, ma anche con casi di abusi su minori? Sì, a voglia, abbiamo sentito queste cose, anzi si parlava... Ma sentito è un conto, ma dico, nella sua esperienza allora, lei ha avuto l'impressione anche di... No, ne ho avuto pure io personalmente, anche se poi sono riuscito a evitarli più di una volta, mi hanno adescato. Pasquale, hanno... allora io qui la fermo e la ringrazio, perché noi stiamo aspettando una risposta da Emanuele Fittipaldi, che gli avevo fatto una domanda prima della nostra interruzione. Io ricordo a tutti che nell'attuale disposizione della CEI, le più recenti, si ribadisce con forza che nell'ordinamento italiano il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha alcun obbligo giuridico di denunciare all'autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito a fatti illeciti, cioè di abusi di minori di cui stiamo parlando. Non ha alcun dovere di farlo, anzi non deve farlo, in parole povere. Cambierà qualcosa, Emanuele? No, a me ritengo abbastanza incredibile quest'ultima cosa che hai detto tu, perché una rivoluzione per essere compiuta ha bisogno, oltre che dichiarazioni importanti, fatti. Io sono un giornalista come te e sappiamo che i fatti sono l'unica cosa che in qualche modo possono permettere di cambiare davvero le cose. Tutto che ancora oggi il Vaticano non ha inserito nelle sue norme l'obbligo di denuncia per i vescovi e i sacerdoti che scoprono i loro colleghi a compiere reati. Obbligo di denuncia, attenzione, non a denuncia canonica, denuncia alle ordini giudiziarie, fa capire come commissioni che non servono a nulla. Addirittura un anno fa, vi ricorderete, si venne annunciato in pompa magna la nascita di un tribunale speciale per i vescovi intrabbiatori. Non è mai nato. Allora, Emiliano, purtroppo ti posso solo ringraziare, invitare tutti a leggerlo e... Cari ascoltatori e cattolici in ascolto, questo non sfiora tutto quanto di inestimabile ogni giorno fanno tanti sacerdoti, suore, coloro che hanno professato la scelta, hanno preso i voti e la rispettano dandosi da fare per l'umanità, i poveri e chi sta peggio. Non mi scappa dalla mente questo e sia ben chiaro che è proprio anche per loro e per tutto quello che fanno che la Chiesa non deve avere paura. Questo voglio dire perché non vorrei che aveste equivocato. Grazie Mino Fittipaldi, perché non c'è una sola parola di mancato rispetto su quello che fa la Chiesa.